amor piangeva, e ch'io con lui talvolta dal qual miei passi non fur mai lontani, mirando per gli effetti acerbe strani l'anima vostra dei suoi nodi sciolta. Or cal dritto, camilla Dio rivolta, col cor levando al cielo ambe le mani, ringrazio lui che giusti preghi umani benignamente sua mercè di ascolta, ed sta tornando all'amorosa vita per farvi al bel desio volger le spalle. Trovaste per la via fossati o poggi, fu per mostrar quanto è spinoso calle, et quanto alpestra et dura la salita, onde al vero valor con lo incompoggi, et quanto alpestra e dura la salita, onde al vero valor con lo incompoggi. Amor piangeva, e ti ho con lui talvolta dal qual miei passi non fur mai lontani, mirando per gli effetti acerbe strani l'anima vostra dei suoi nodi sciolta, ed se tornando all'amorosa vita per farvi al bel desio volger le spalle, trovaste per la via fossati o poggi, fu per mostrar quanto è spinoso calle, et quanto alpestra et dura la salita, onde al vero valor conven quon poggi, et quanto alpestra et dura la salita, onde al vero valor conven quon poggi.